sono basito di abitare in una regione che, nonostante quello che è accaduto negli ultimi 2 anni e che accadrà nei prossimi anni, ha non solo proseguito allegramente, ma incrementato drammaticamente il consumo di suolo. La situazione è gravissima, perché se ogni ora perdiamo una porzione di suolo pari a circa 10.000 metri quadrati. 10.000 metri quadrati sono un campo da calcio regolamentare. È veramente una situazione drammatica. 1.000 ettari in più occupati, cementificati, asfaltati, che ci porta al primo posto in Italia. Il secondo posto c'è la Lombardia con 834 ettari, poi seguono, distanziati in qualche modo, la Puglia con 818 e la Sicilia con 799. Io faccio i complimenti al nostro presidente De Pasquale, perché sono record importanti per una regione colpita così duramente dalle alluvioni causate ovviamente da fenomeni climatici nuovi, diversi, drammaticamente amplificati, ma, come dice anche per esempio i tecnici del Comitato Tecnico Agire, causati anche dal consumo di suolo, quindi dal suolo che sempre meno riesce a far infiltrare o a svolgere le funzioni naturali, quei servizi ecosistemici tanto importanti. D'altra parte, questo record che io addebito al presidente De Pasquale non è un caso se il primo comune con l'Oscar per il consumo di suolo è quello che lui ha governato fino a un anno fa come sindaco, perché al primo posto come comune c'è Ravenna, che è stato oggetto di notevoli polemiche nel corso dell'estate del 2023 con l'ex assessore all'urbanistica, perché De Pasquale diceva: ah, io ho le mani legate, è tutta colpa della regione e della legge regionale. Cioè, l'ex assessore all'urbanistica diceva: no, essere eletti è una cosa importante, cioè ha un valore, l'urbanistica ha un valore sociale e un valore politico rilevante, quindi non puoi nascondere dietro al dito come sindaco eletto dai cittadini dicendo tutta colpa della regione. Questo sindaco ha avuto come premio quello di diventare presidente della regione. Però appunto la regione ha risposto a questi dati ISPRA dicendo che l'86% del suolo consumato è reversibile, cioè occupato da cantieri, da fotovoltaico, e che sono stati rinaturalizzati 143 ettari. È vero, la regione Emilia Romagna ha un altro primato importante, che è quello che una volta finito un uso temporaneo del cantiere restituisce, come Excava per esempio, restituisce questa porzione di suolo a una rinaturazione o ricomposizione ambientale, come vogliamo dire. Quindi ok, peccato che il dato nazionale dica semplicemente che solo il 5% del suolo consumato viene restituito alla natura, agli usi che svolgeva precedentemente. Quindi attenzione a metterci sempre questo sport di metterci sempre la spillina sulla giacca, di essere primi in tutto, ponderiamolo, perché 1.000 ettari non è una cavolata, e quando li occupiamo con la logistica, o quando li occupiamo con il fotovoltaico a terra, o quando li occupiamo con strade, o quando li occupiamo, è difficile dire che quello sia reversibile, eh? Quello è reversibile nel lungo periodo, forse, se qualcuno mai smonterà una strada, smonterà un'area industriale, smonterà un quartiere di una città, eccetera eccetera eccetera. Una precisazione è utile: l'Emilia Romagna è al primo posto per il consumo di suolo fra il 2023 e il 2024, non è al primo posto come suolo consumato a tutto il 2024, in questo caso è solo al terzo posto, siamo sempre sul podio, ma è solo al terzo posto, perché c'è il tappeggio di noi che sono i lombardi e sono i veneti, ma d'altra parte sono anni che ce la giochiamo. Emilia Romagna è sempre sul podio dal 2012 a oggi. Se prendiamo le aree a pericolosità idraulica media, cioè quelle aree allagabili in caso di eventi con tempo di ritorno fra i 100 e 200 anni, un po' come quelle che sono accadute negli ultimi 2 anni, nel 2023 e 2024, beh, in questo caso noi abbiamo, anche qui abbiamo il primo posto in assoluto, cioè noi abbiamo 721 ettari consumati, di quei 1031 consumati, cioè più della metà, li abbiamo consumati in aree a media pericolosità idraulica. Anche questo non è tanto un primato di cui vantarsi, perché se guardiamo le mappe di ISPRA, noi vediamo che quali sono le aree a pericolosità idraulica media, alta, bassa, soprattutto media e elevata, sono la Pianura Padana. Allora è chiaro che noi abbiamo un consumo di suolo che avviene per il 60-70% in pianura. Sarebbe ora che si fermasse il consumo di suolo, soprattutto quando facciamo i conti con terreni che non sono più in grado di ospitare l'acqua che cade con questi eventi eccezionali. Ma l'altra cosa importante è che il fenomeno risulta essere particolarmente evidente quando il consumo di suolo è in crescita per lo sviluppo dei poli logistici. turistici in Lombardia e in Emilia Romagna. L'Emilia Romagna ha 1052 ettari, pari al 7% del territorio regionale occupato da poli della logistica. Ma noi siamo al primo posto in Italia nel consumo di suolo in aree a media pericolosità idraulica, ma per farci che? Per farci i poli della logistica. Noi siamo una regione che per prima in Italia ha avuto un piano territoriale paesaggistico, cioè un piano che anticipava la legge Galasso, la 431, che tutelava i beni e le risorse naturali. L'Emilia Romagna ha consumato 131 ettari in aree tutelate. Abbiamo un bel da stimarci che abbiamo, sì, ma comunque noi poi dopo le riconvertiamo le aree. Beh, intanto le abbiamo consumate. Sono passati ormai quasi 8 anni dall'entrata in vigore della legge urbanistica regionale, al di là della finestra dei primi 3 anni, poi diventati 6, siamo già oltre il periodo e, come dire, il consumo di suolo non si è fermato, quindi uno dei problemi rimane quella legge? Fatta la legge, trovata l'inganno. Questa legge è una legge con la lingua biforcuta, con una mano l'ha riempita di contenuti importanti, con l'altra ha aperto N finestre possibili, sono N articoli che ho chiamato nella critica alla legge, l'articolo rubamasto, l'articolo tana libera tutti, l'articolo eccetera eccetera eccetera. È colpa della legge o è colpa di questa politica, di questi amministratori, o è colpa di una politica del territorio che non c'è più? Perché è vero, questa legge ti consente di fare buoni piani, ma ti consente anche la via d'uscita per fare cattivi piani, cioè piani buoni per i costruttori, per i cementificatori. Allora sicuramente questa legge va modificata. Allora, prima di iniziare un percorso di riscrittura di una legge, che è sempre una cosa lunga, ci vogliono almeno 3 anni, apportando piccole correzioni a quella legge, ti evitano a sindaci come De Pascale quando era a Ravenna di fare il furbino e scrivere le cose in un certo modo. Perché l'urbanistica di per sé non è cattiva, l'urbanistica è politica. E quindi se io faccio la politica in un certo modo o non faccio più politica, l'urbanistica diventa cattivissima, perché consente ai rapinatori, agli speculatori di distruggere il territorio.